del KK. Ma il segnale com'è? La radio buona? A Puglia, una cannonata. Il segnale buono. Qua 9.40 muto, 9.50 muto là. Una madonna. E avevo messo anche questa a 10 watt. Sono fatto dare il rosmetro a Massimiliano di ieri. Mi ha detto tutti tarando bene, perché erano tutti a 2 watt e mezzo, a 2-3 watt, 1 watt e mezzo, 3 watt, 2 watt. Mi sto portando tutti a 5 watt, 7 watt, sino a dove arrivano. Fai bene. Almeno le puoi usare tranquillamente, senza problemi. Non si è affacciato nessuno, no? No, io sinceramente ero in stanza già da un pochino, però no, non sento nessuno. Io ce l'ho detto. Questo è sempre il coso, mi fa, l'SBM. Va bene. Vabbè, ce l'ho tutto smontato, capottato. KK, va bene. Vediamo un po' con questa che è già da un bel po' fermo questo Milan. Vabbè, dai, io mi allontano un po' dalla radio, che sono sempre qua, me ne vado un po' ai fornilli, ci accentiamo più tardi, dai, a dopo, ciao. Ehi, agappa, dillo Dandu. Gianni. CQ canale 10. Prova CQ10. Quando sono negativi in realtà sono positivi. tanto voglio dire. No, no, sono positivi già, sto ascoltando col Midland, col 574, e sta arrivando, sì, proprio 9 più 30 a pieno, sì, in mezzo tra lo 3, tra il 3 e lo 0, ed è anche abbastanza preciso questo Smitter. La radio è buonissima, non c'è problema. A me mi ascolti bene? Sì, benissimo. Benissimo. Quindi questo funziona. Cosa dovrò fare? Aspetta che provo a regolare la cosa. Allora, ecco qua, regolata la cosa. Sto sempre funzionando, sì, penso di sì. Però il segnale è un po' calato. Ho capito, Giaffa, scusa che mi sono distratto, cosa hai detto? Adesso il segnale è un po' calato, vero? Dovrebbe, forse mezzo watt, un watt. Adesso il tuo segnale, ma sei staccato? No, ho abbassato tutta la potenza. Un watt e mezzo. 9 più 20 abbondanti, sì. Però sempre ottimo segnale. Ok. Adesso provo un'altra radio. Ma nel frattempo ti chiedo, non è che in qualche cassetto nel tuo deposito, eccetera, già, ti ritrovi un attacco centro-tetto cosiddetto, che sarebbe, insomma, lo sai qual è, no? Quello che si mettono le antenne a PL. Un attacco centro-tetto, io ho una basetta che volendo te la fai centro-tetto, no? Ma devi mettere la centro-tetto in macchina. Ah già, devi mettere in macchina o ti serve per casa? Se ti serve per casa ti do direttamente il centro-tetto collegato alla basettina col cavo già attaccato. No, per macchina, perché quello che c'ho, che va bene, però si è mangiato la guarnizione. Cambio la guarnizione se trovo qualcosa di sostitutivo, se no mi tocca fabbricargliela, ma siccome non c'ho tempo, sto pensando di trovarne una, ecco. Il buco comunque deve essere della grandezza del coso lì, come si chiama, del PL, dai. Sono quelle che osservavamo un periodo, no, così non ne ho già fatto, così non ti posso aiutare. Una basetta ce l'ho, cioè ci puoi attaccare l'antenna, però è tipo grondaia, capito? Ah, guarda, li ho visti da poco io i centrotetti su internet, costavano sui 12 euro, una cosa del genere. Sì, ho visto anch'io, ma di lì è solo un problema di guarnizione, non è un problema che si è rotto. Devo trovare un pezzo di gomma un po' largo, o poi mi sono afferrato bene con le antenne quelle da macchina e finalmente ne ho recuperato, insomma, ho fatto tutta una tirata che non ti dico, ho cambiato le batterie all'analizzatore, roba di 4 volte, però ho vinto io alla fine. Tutte le antenne big band adesso che ciò sono efficienti, è tutta per la macchina. Ma allora fai come avevo fatto io una volta nella Peugeot, Gianfra. Procurati, vai da qualche gommista e ti farai un pezzo di camera d'aria, di quelle robuste, ok? Gliela fai rotonda, metti il centro attento sopra, glielo tracci bene col pennarello, poi ritagli bene e gliela metti sotto, tu vedrai che non ne hai problemi. Se il centro attento funziona, cosa devi comprare? Fare la guarnizione nuova, no? Sì, ci stavo già pensando, però lavoro un pochettino più grossa, ecco, per essere un po' più robusta, ma già la provo, non c'è problema. Adesso devo provare un altro apparecchio, che sarebbe l'ultimo che avevo comprato, quello cioè che aspettavamo. Vabbè, io avevo fatto così nel Peugeot, perché mi ricordo che appunto mi aveva macchiato leggermente la cappotta, qualche gocciolina d'acqua entrava quando la lavavo, non quando pioveva, e allora l'avevo rismontata, gli avevo messo sotto il silicone trasparente e pure la guarnizione quella fatta da me di camera d'aria, Gianfranco. Ben fatta, segnata col pennarello, come messo la bagettina sopra, che era di quelle di plastificate nere, ti ricordi? Quelle lì, che un periodo le vendevamo anche alla CBC, mi sembra, e non è andata più, figurati che non l'ho manco staccata, quando avevo passato poi la Peugeot, che era una Peugeot van da lavoro, avevo versato, l'avevo lasciata al centrotetto, gli avevo messo il tappo e l'avevo lasciata attaccata al centrotetto, se no rimaneva al buco, capito? E vabbè, vedi un po', se vuoi una basetta io te la do, già col centrotetto attaccata, però non si può staccare così, capito? È da grondaia. Sì, ho capito. Non so se sto uscendo, sì, perché sono con l'altro apparecchio. Sì, che stai uscendo. Eh sì, perché la potenza è talmente bassa che neanche la vedo. Ecco, adesso sono con il microfono da palmo, perché ancora non ho potuto fare il... come si chiama? L'adattatore, dai, per un microfono da tavolo, anche se questa in realtà... No, non è esattamente un radio da base, può essere anche utilizzata in base, però è più che altro tipo sommergibile, per intenderci. Adesso provo un attimino a aumentare la potenza, però devo staccare perché devo girare questa manopola che è lunga che il mese di maggio. Gianfra, mi devo tornare davanti alla radio, c'è roba in forno, sentiamo un attimo. Sì, comunque ho già sistemato. Vai pure, poi mi dici com'è. Avanti. E allora, si è bruciato tutto. Prova. Scusi, Gianfra, che ogni tanto devo andare, c'è roba in forma. Mi stavi dicendo, ho 5 minuti. Sì, volevo sapere se era roba buona almeno, cosa stai facendo al forno, qualche arrosto o qualcosa. Ecco, guarda adesso, la radio ovviamente non penso che sia del livello di là, perché ripeto, è un microfonino palmare. E niente, dovrebbe essere il segnale, diciamo, discreto, 4 watt, vediamo un po'. No, la radio è buona, perfetta, è la tua, no, non ci sono problemi, Gianfra, vai benissimo alla grande. Ah, quindi non fa neanche effetto di radio cupa, quelle cose lì, buona sapersi. No, a me lo piace tutto, radio 5 perfetta, senza problemi, la tua solita radio. Visto, quindi i preamplificati non servono praticamente a un tubo, servono giusto per essere da tavola. Il segnale invece ha variato molto, o più o meno siamo lì? No, siamo lì, 20, 22, insomma, va bene. Di solito tu arrivi 25 sul 140, adesso qua sei sul più, quindi sei più 20, diciamo, dai. Ma sto usando un baracchino, questo è proprio quello, non è il più scadente, ma comunque non è il Galaxy, perciò va bene lo stesso, per carità, abbastanza preciso, però sempre un baracchino, quindi varia. Ecco, adesso ho ridotto proprio a mezzo watt, quindi dovrebbe essere intorno a 9, presumo, il segnale, la radio non penso che abbia subito cambiamento, perché questo ha due possibilità, è proprio come il sommergibile, no? Fa sia batteria e sia alimentato, con la differenza che questo qua però è modernissimo, tutto lì. No, 9 più 10 abbondante sì, già fra, no, 9. Sei sceso a 9 più 10, però ti ripeto, ottimo segnale e ottima radio anche, non c'è problema. Va bene, fine prova allora. Va bene così, tutto capo, perché ho dovuto fabbricare anche una staffa. L'ho fabbricata io, non l'ho voluta comprare perché una staffa con PL, questa sono tutti quelli stessi, non mi ricordo se volevano 45-50 euro, una cosa allucinante, un pezzo di svelo. Quindi me la sono costruito, cioè, un colpo di strafano, un PL da attaccare e via. E vedo che sta andando bene. No, vai andare benissimo, Gianfranco, non c'è nessun problema, non ti preoccupare, tutto K di Roger, tranquillo e sereno che va benissimo alla grande, ok? No, ho fatto degli voltini di peperoni, dei peperoni ripieni, degli voltini li ho messi al forno, devo seguire perché altrimenti no, mi si bruciano, capito? Dai, ci sentiamo dopo, appena spengo il forno sono qua. Ok, va bene, io vado a mangiare qualcosa, mi ha fatto venire fame, mannaggia, oggi non ho quasi mangiato niente perché mi hanno trattenuto al lavoro e quindi tra una scoccia e l'altra stavo per saltare il tram. Dai, ci sentiamo dopo. Ehi, è tutto acceso qua, vale, vengo, ma già sono attivo, non c'è problema, dopo ciao. Noi Lima, pochi sono, per me e mia moglie. E allora, come va? Ma hanno un po' smorentati, lavorati piano piano, rotolati, insomma, messo ripieno. E poi devi bloccarlo con lo stecchino, insomma c'è un po' di lavoro, ma poi alla fine già sono buoni. Ok, dai, stai arrivando a Santiago 5, Radio 5, qua a Sassari. Sì, con la carne macinata, un attimino che vorrei entrare, sto parlando con Ottieri, un secondo solo, poi ti lascio il canale libero. Sì, con la carne macinata, tipo tutto il procedimento delle polpette praticamente, dai, e poi si mette tutto dentro e si fa. Ti devo lasciare che devo andare a curare, se no mi si brucia tutto, ok? Salutami a Giovanni e un saluto circolare a tutto Ottieri. Ciao Lima 1. Ciao Lima, magari ci sentiamo più tardi, dai. Intanto mi sa che sono io, ti ascolto a Sassari. Ciao, buona serata, buon tutto, a più tardi. Ciao, ciao, alle prossime. E lui, ci sentiamo dopo, c'è roba al forno, sto parlando con Lima 1, mi ha salutato, l'ho risposto. Ci sentiamo dopo. Ehi, occhio giù il microfono, scendo. Sì, 9.30 Radio 5. Gappa. Tu hai provo a fare. Sì, ma senza radio però, non glielo dici. Vabbè, la radio è un po' bassina, ma comunque già è 5, dai. Ciao T, seguitelo tu a Bingo Bongo, già arrivo subito. Ciao, ciao. Più. Sì, sono in cantina, no, più giù. Ma tu pensa, no? No, ci sei. Stai innescando, la radio è proprio bassa. Sempre innescando. Però ti si è abbassato ancora di più il radio, proprio quasi non ti sento. La radio, cioè comunque ce l'ho quasi a metà, per farti capire la mia ricezione. Sono senza il processore, se no è niente. Ma col microfono, so che sarebbe andato a finire, sono stato il mio. Faccio fatica ad ascoltarti, credimi. Ho detto che non c'è massa quel microfono. Adesso è migliorato. Lo so, però. Non ti ascoltavo. Probabilmente innesca per quel motivo. Capito? Tocca tenere tutto a passo. Bisogna che faccio una massa. Vabbè. Chi arriva? Io. Poi sono andato a accompagnare a Gabriele a calcio invece all'allenamento domani. Non ho visto, ma ancora di quella cosa, già c'è. Porta! Oh ti, questa bene sta andando la radio. Va bene. Ehi, anche il segnale, me li sto tutte. Tra l'altro mi ha dato Rosmetro, Massimiliano, l'ha prestato. sto tutte tirando, gamma via un watt, gamma via 2 watt e mezzo, sto portando tutte a 5, 6 watt, no? Vabbè, grazie, c'è la potenza regolabile. Questo è il 574 con l'MBP5, già va bene, no? Sì, se voglia, va bene, come fate, va bene. Non posso fare un paragone tra te e Luca, perché Luca, nonostante tutto, è ancora basso in radio. Perché Luca è qualcuno, ma io no. Adesso vediamo di mettere una massa. Ah, lui è che stava fischiando, l'ho sentito da lontano, pensavo ci fosse la puntante. Sì, sì. E io lo metto a posto, piano piano. No, questo va bene di radio, mi sono soltanto anche in cuffie, il segnale dovrebbe essere anche buono. È buono. Chiappa di Roger, sono qua comunque, datemi il tempo di finire questa cosa al forno, poi già sono qua. Poi passa, lo assaggiamo, vediamo un po' come è uscita, se sembra come la cuoco. Come la cuoco. 6,920 con picchi a 9,22. Sì, già va bene, a voglia. 6 watt modulati 8, 7, 8 già va bene. Sì, sì. Scappa, seguiti a Luca, io già arrivo subito, sono qua intanto. Andrà bene. Luca, l'hai fatto? No, solo un attimo. Meglia. No, solo un secondo, sto cambiando la capsula, ti. Un attimo, è legatissimo. Meglia, sono qua. Hola? C'è qualcuno qua su 10? Sì, ciao. Ciao T, come sto uscendo? Simulazione normale. Non è amplificata, è normale. Come non è amplificata? Non è tantissimo, cioè leggera. Aspetta che alzo un pochettino, guarda se adesso va meglio, un po' più alto. Appena aumentato. Non è forte quindi, aspetta, alza ancora un pochettino, guarda un po'. Alza ancora appena. 1, 2, 3, prova radio, 27075. Ancora fai più. Hola, attenzione, 27075. Ma va bene così, se vuoi puoi alzare ancora. E il segnale com'è? Aspetta, forse sono un po' troppo altino. Sto uscendo bene di segnale? Segnale quasi 9,20. Il solito mio, Sì, diciamo di sì. Ok, comunque adesso va meglio la radio, cioè più forte di come l'ho prima. È come sia entrato, infatti mi è sembrato un microfono normale. Dove. Aspetta che proviamo. Guarda se cambia qualcosa, così meglio, Così sta dando più amplificazione. Guarda un po' adesso, sto sollevando ancora un pochettino. Lascia così, però non esagerare, perché sennò poi lo sai l'effetto che fa. L'importante è che non rimbombi, va bene così? Così amplificata, va bene, io ti ascolto bene, poi dipende, sai, sempre da radio a radio, Ma con l'altoparlante esterno mi stai ascoltando tu, Tino? Sì, sì. Ok, anche io ti sto ascoltando con la stessa cosa. Ok, che c'è qualche donato comunque? C'è qualcuno che sta cucinando. Cosa stai facendo, Clare, polpette? Cosa stai facendo? Non ho capito. E chi è? Di chi stai parlando? Claudio. Claudio? Sì. A me è diventato un cuoco, purtroppo, vabbè. Si è dovuto adattare alla situazione, speriamo che si risolva quanto prima il discorso della moglie, ma dice che sta un po' meglio adesso, piano piano, così si libera delle faccende domestiche, sennò cacchio li avremmo buro di ordinazione. Ma io infatti non credo, vedo Anna che con la frusta lo tira sotto. Oh, non hai visto come ti gioco, faccio un grembiule. Ti mando cacchio l'ASL per controllarti, in ASL, Claudio, se stai rispettando le regole della pulizia. C'ho il grembiule e poi c'ho anche il berretto del McDonald's, capito? Proprio da cuoco, chef. E che cuocuomane? Da cuocuomane, certo che sì, da cuocuomane. Mia Natalino, ciao Natalino. Ciao Robby. Ciao a tutti quelli che sono in rossa, rimango in ascolto. E beh, a fare. Ciao a tutti. Cacca, Natalia non bari un'anima in pena, un uccellino in gabbia, da quando ha avuto tutti quei problemi di coso, di vicinato. Sì, no, meglio Luca. E non era così, però, 20 anni, 30 anni fa, Dimmi Luca. Si è cambiato, ciao Roberto e ciao Natalia. Adesso è molto più amplificata, forse dovete abbassare ora. Addirittura, sono senza compressore anche inserito, le ho cambiato solo la capsula che ho recuperato dai citofoni che avevo in soffitta, anzi, se lì che sta facendo bello, poi le terrazze le recupero che erano sotto l'acqua. Guarda, bene bene bene non te lo do il bene bene bene, perché hai una raccolta di frusci dietro, che cosa, la metà basta, però la radio ha migliorato da poc'anzi, nel senso che poco fa in cantina. Guarda che adesso ho abbassato il martirini, sì, a 5. Ma abbassa ancora? Addirittura, però questa capsula è veramente ottima. Senza processore. Adesso hai eliminato un po' di frusci, ma ne hai ancora appena, Poi vabbè, non so se l'effetto di microfono o quant'altro, vabbè, dagli anche tu un controllo. Diciamo un po' una zina citofurica, però è abbastanza chiara la modulazione, già si capisce, non è un granché, però riesco a sentirti abbastanza bene. Il livello microfonico è abbastanza forte, ti sento un bel amplificato. Non ne voglio, perché io mi ho cambiato circuito a questo SBE, gli ho messo un circuito di amplificazione e vabbè, adesso gli ho cambiato questa capsula, anche che ripeto sono capsule giganti di citofoni, che saranno 3 cm e mezzo abbondante, forse anche 4. Vabbè, molte volte chi me l'aveva messa? Luca, io ho un M93 che ce l'ho 10 anni, forse di più, con la stessa batteria, Luca le aveva messo una cosa di telefono, cacchio, una bomba, c'era una bomba quel microfono, almeno così mi avete detto. Mentre quello originale c'è basso basso, vero sì? Sì. Luca, ma quella immagine che mi hai mandato di quell'antenna, è a casa tua questa? L'immagine di antenna? Aspetta. Il video? Non lo so, aspetta. Che stai accordando un'antenna, hai costruito un'antenna? Casa mia è quella. Infatti non riuscivo a capire, ho detto, ma di chi è questo CB che c'ha questa stazione qua, in questa zona? Ho detto, forse qualcuno nuovo, e poi invece ho capito che eri tu. Ecco, quindi da avere batterie gratis, così, Luca. Un tempo facevano anche i concerti. Infatti è una bella posizione, cioè, a che piano sei tu? All'ultimo. Quindi non hai problemi di niente. In questo momento sei di lì, con quell'antenna lì stai trasmettendo. È una di quelle, quella che hai visto nel video, è un'antenna che stavo tarando, che ho già spedito stamattina, tra l'altro. E quella che sta utilizzando adesso è uguale a quella nella stessa posizione? Esattamente, esattamente. Sono le antenne che faccio io, Roberto. Sì, ho capito, ma quello che voglio capire, in terrazzino così la metti, non ha bisogno di sollevarla, di allontanarsi. Io la metto sul parascensore, l'ho costruito e le tarò lì. Ho capito, Vediamo se c'è qualche donato qua sul canale 10. Chi vuole andare avanti? Non c'è nessuno. Ok, vabbè Tino, riprenditi il mic, tu. Sì, comunque lo sento ancora un pochino quel leggero fruscio. Non so, prova a cambiarne un'altra, visto che ne hai talmente tante. Ma le altre sono uguali, sì, capito. Sono una serie di citofoni che c'erano in soffitta, ma sono tutti uguali. Aspetta un secondo che faccio una prova con un'altra cosa invece. Sono qua, sto scorrendo con le immagini. Mi non spargete troppo la voce, le vanno bene le capsule di citofoni, bisogna andare in giro di lì nelle zone vostre e ne staccano tutti il coso, i tasti dei citofonici, cioè dove ci sono i pulsantini, i gabbani e tutto, poi vai a rispondere, dice, cazzo, ma no che se ne ha lavorato la capsula. Sì, ma questa è una cosa che ci sa da anni, roba non è da oggi, no? Sì, no, citofoni non ne ho visto perché sono un po' più grandicelle, normalmente utilizzavano quelle del telefono per le MB più 5, le M93 c'erano quelle del coso, del telefono, ma dei togliere quelle dei citofoni perché le vedo un po' grandicelle. Vabbè. Sei in cantina ora? Non stava uscendo, mi pare. Sto uscendo da basso basso però. Prova lui. No, basso basso, neanche ti senti. Allora questa sì la capsula e l'altra l'altoparlante. KK. Niente, l'ho stata tenendo in mano, è a penzoloni, ce l'ho così. Siccome è grande, non fa neanche a metterla nell'SBE perché è più grande della sua sede. Sì, non ti vantare, quello dei zelli. Ce l'ho in mano, sto prendo a penzoloni, ma insomma. Aspetta, metto una capsula di quelle normali piccoline, sai, quelle classiche dei microfoni MB5. Aspetta, vediamo un po' se quella funziona. E magari quella va meglio, dai. Ok, quando ti sentono parlare ce l'ho in mano, la sto tirando, uno chissà cosa pensa a voi, che non capisce la conversazione. Allora, lui mi sono messo in macchina la circolare e poi mi sono dimenticato stasera di passare, ero lì al campo. Che testa. Ma senti, no, tuo figlio stava giocando a pallone, no? Oggi è andato, però deve giocare domani, deve allenarsi domani. Ma non ho ripreso, perché ho visto qua vicino a me ai militari, c'era credo la torre di ragazzini, un po' di gente, tutti ammutunati, nessuno aveva la mascherina né niente, ma detto, sanno che oggi abbiamo ripreso. Sì, vedi, queste cose non, da noi per dire non è così, perché da noi fanno entrare i ragazzi, nonostante tutto c'è tutto il posto possibile immaginabile, però non ci fanno neanche entrare a noi, quindi lasciano i ragazzi al campo distanziati, allenamento distanziato, e per giunta i parenti tutti fuori. Ma non li fanno entrare negli spogliatoi, solo allenamento e buio, poi se ne vanno. Sì, non fanno né spogliatoi né doccia, nulla. Quello infatti volevo capire. Quanti anni c'ha tuo figlio, che categoria è? 14 anni, giovanissimi. Primo anno di giovanissimi, no, perché volevo capire, perché siccome se devi farli entrare negli spogliatoi, guarda, è una cosa allucinante, se devi seguire tutta la normativa, sanificare all'ingresso, all'uscita, farli entrare massimo 3 persone, sarebbe troppo complicato da gestire, perché poi se non fai così e ti trovano, prendi una multa grossissima, ti chiedono l'attività e ti fanno nuovo, per cui hanno deciso le società di fare l'allenamento individuale, nel senso distanziato nel campo a una certa distanza, e li fanno l'allenamento e poi se ne andano, che è la cosa più semplice. Sì, infatti, ma vabbè, per adesso diciamo che stavano perdendo troppi quattrini, la società stava perdendo troppi soldi, perché ci sono tanti allievi, no? Erano già un paio di mesi chiusi, quindi hanno studiato una sorta di allenamento per poter rientrare e far muovere nuovamente tutta l'attività, capito? Adesso purtroppo tu non hai idea cosa perdono i ragazzini, tuo figlio, diciamo, 14 anni, è ancora già qualcosina, l'ha già imparato, deve imparare tanto, però qualcosa, tu fai conto un bambino di scuola a calcio, uno che ha 7-8 anni, che sta iniziando a toccare il pallone, a stoppare, a fare il controllo di palla, a guidare la palla, eccetera eccetera, e tu di colpo gli togli un anno di coso, di miglioramento. È come che un bambino a scuola gli salti un anno di scuola, fai la prima elementare e poi di colpo dice no, non ci vai, seconda non ce n'è, ti trovi all'anno prossimo, riprendi. E per questo anche peggio. Scusa che c'è il telefono, scusa. Sì, perfetto. Cazzo, il telefono, i carabinieri dicevo che c'è, non è il telefono. Faccio dei compiti. Certo. Beh, già sono sempre qua, Sono sempre qua, devo controllare per Roma. Sì, no. Ehi. Basso, Lu, basso in lontananza. Ok, dai, aspetta. Perché se lo metto... Se lo metto te. Vedi? No, non va bene, Lu, non va bene. Prova a mettergli quella mia. Prova a mettere quel microfono trovato. Beh, allora, ho bugato bene, avremmo questo microfono. Ah! Sono rientrato? Sì, già siamo qua. Abbassa il volume, mi vai sotto. Ma io? Sto usando il solito microfono, già. Ce l'ho a 2, a 3, no. È che sto usando il 574, il Midland. 78574, che era un po' di tempo spento. Oh, mi sembri più forte del solito come rumore, diciamo, come modulazione. Sempre uguale, roba, io lo sai, non tocco niente, non sto lì a cicischiare. È un bel microfono, è una bella radio, soprattutto questa spinge tantissimo, non ha Mickey Gain. Avessi avuto un Mickey Gain, sono a 30 cm dal microfono, figurati. Confronto a loro, cacchio, ho dovuto abbassare il volume perché eri fortissimo. E io, vabbè, non vedi che sono liscio, tranquillo, il segnale è quello, quindi non ho niente, Roberto. Sono balacchini, ogni tanto li accendo. E io, vabbè, per non andare sempre con ghiaccio, ogni tanto vado anche con questi qua, dai, funziona bene, soprattutto questo, il Midland e l'Inuit sono i miei preferiti. Anche anche il Pony funziona bene, però questi sono i miei preferiti. No, questa è una bella radio, mi piace, bella chiara, corposa, piena, sembrava un apparecchio importante. Dai, con questo io sto uscendo con quello grande, Cla. Come sta andando? Manca un altro, Roberto, l'avrei detto. Perfetto, bello, forte, chiaro, segnale il tuo. Bene, come 44, né più né meno. Eia, va benissimo. Ok, vediamo un pochettino qua su 10 se c'è Luca ancora, Tino, poi c'è Natalino in ascolto, se qualche donato vuole entrare lo facciamo entrare, se no riprendi tu Tino. Sì, dai, io aspetto un attimino Luca per fare una cazzo e poi rimango in corretto, sto facendo il documento al PC e no, ho bisogno un pochino di concentrazione, dai. Eia, Luca ci sei? Ehi, sei un po' nasino però lui. Ah, io, paperino. No, adesso mi cerco quelle cazzole piccoline, quelle classiche. Metto quelle lì, vediamo un po'. Ma perché non hai lasciato quella lì, Luca, cazzo? Quella c'era prima. È quella originale. Se non stavo uscendo. No, quella che hai fatto poco fa. Quella che hai fatto poco fa. Il passaggio che ti abbiamo dato poco fa. Allora, come passaggio mi avete detto che era bassa bassa, era l'originale. Poi ho messo quella dell'MC50 ed era bassissima. Questa è quella del citofono. Allora, aspetta un attimino, adesso guardo. Allora, adesso sto mettendo il mic gain a 6. Già va bene, già va bene, però mi piaceva più l'altra, l'altra, quella capsula che avevi poco fa, mi sembrava un po' più, a prescindere da quelle frusci che ti portavi appresso, ma molto probabilmente è perché era troppo alta, però come tonalità era meglio di questa. Tiro mi ha detto che ero sottoterra in cantina, con quello originale. Non ti sto dicendo quella originale, cazzate bisogna scrivere, cazzo, boh. Quella che hai provato che era un bel amplificata. No, ma tu ti stai confondendo, cazzo, non è più capsule. Ho messo quella dell'MC50 e non va bene. Ho messo, c'era l'originale e Tino mi stava dicendo che si sentiva l'innesco più, era bassissima di radio. E poi ho messo questa qua del citofono. Questa, perché l'hai abbassata? Alzala per appena, quanto ce l'hai Michigi? Parla con me, non con Tino, che Tino non capisce niente. È vero. Aspetta, mi ha detto di abbassare Tino, adesso è 8, non 9 per Michigi. No, così è troppo alto, così no, così lo fai esordio che ce l'hai vicino. Mettilo a 6 Michigi. 8, 7, 6, era 6 poco fa qua. Vabbè, non ci dà la penzolone, la cazzola, non è nella sua sede, perché non ci sta nella sua sede neanche. Cazzo, ce devi baciare la presa. Guarda, il lontananza per me va bene, forse Tino è troppo vicino, è molto forte come tonalità di radio. Magari probabilmente ho capito, aprire il microfono e abbassare i trimestri, capito? Vedi, qui stai innescando, vabbè, ma se ce l'hai aperto non vuoi puoi fare queste prove. La capsula va bene, ti conviene chiuderlo, metterlo nella sede, fare tutto e poi riprovarlo. Così se no ti porti appresso un sacco di rumori. No, gli ho provato a appoggiare il coso sopra, ma l'innesca probabilmente ci ho fatto, ma cazzo, la devo rimpicciolire. E come fai a rimpicciolire questa roba? Boh. La taglierina. Fa la rotonda, quadrata, batte il ventria, cosa non ci riesce, già si riesce. Piano piano con la taglierina, farla un pochino più rotonda, già si riesce. Guarda, ci stiamo andando là sotto, del tappo dell'SBE. Cazzo, che l'SBE è Madurumi, c'ha il coso d'ingresso più grande del Tarni più 3 e non entra. Ah, faccia bicarbonato, lo c'è, una gormetta di sidro del telefono. Vai a Tino che c'ha la trompesina, te la taglia lui. È camoletta, Guarda, Lu, se riesco a mandarti questo messaggio, perché qua la linea non prendo il telefono, quindi ti ascolti come stai uscendo. Guarda, ti dovrebbe essere arrivato, C'era gente poco fa parlando sotto, vabbè, non c'è nessuno, dai, riprendete voi, vai Claudio. Sì, c'è Ozzieri che sta parlando, sotto, c'è Di Mauro con Giovanni Lazzieri, stavo parlando io poco fa quando tu sei andato via, e niente, sono Lazzieri quello che sta parlando, se senti qualcuno basso basso, qua arriva Santiago 5 Di Mauro, Giovanni non lo sento neanche. E poi poco fa c'era lo splatter dal canale 9, c'erano due camionisti qua, sicuramente hanno scaricato all'Eurospin e si sono posti, sono passati tutti e due al via Milano, mani molto, ma in oggi hanno biliato gol più bruetti. Avanti, break per il controllo, cambio. Buonasera Claudio, ciao, buonasera, ben ascoltato. Allora, il segnale è 9 più 20, è il tuo segnale preciso, perfetto. E la radio per me è 5, ottima radio. Roberto? Anche a me il segnale più o meno così, poco meno di 9 più 20, radio 5. Riprova a parlare per vedere se sei abbastanza amplificato. Non ho memorizzato, prova a parlare. No, no, adesso è forte. Naturalmente quella di Claudio è più forte come modulazione, è più corposa, più naturale, ma anche la tua è chiara, 5. Non è eccellente, ma è una buona radio, dai. Comprensibilissima. Ottimo, Javier, ottimo per la truppa. I due microfoni funzionano molto bene. Sì, io sto andando con 574 della Midland, microfono solito MB più 5, questi giorni era un po' abbandonato, ma a me piace molto questa radio come ricevitore, e quello intanto la facciamo andare. No, sta andando bene qua, 9 più 20, radio 5, ottima, sembra un microfono semi-amplificato, ma si sa. Quelle radio così funzionano molto molto bene. Vediamo un po' se ti ha ascoltato Tino. Tino, l'hai sentito a Claudio Chiodo? Sì, ciao Claudio. L'ascolto, vabbè, arriva un pochino più basso e da me è quasi 9. Santiago 9 la radio 5. Ciao Claudio. Aspetta, Claudio, riprendo io che mi devo sensare, dai, devo abbassare il volume, devo fare una cosa importante. Ci sentiamo più tardi nel caso, se coincide. Vai Claudio. Ciao Paderoggio, ci siamo qua, dai, io spento il forno poi dopo che ritorno col cane lo riaccendo. Quella radio le puoi lasciare anni dentro l'armadio, guarda, io quella che avevo dato a Giulio, ce l'avevo anni dentro l'armadio. Ti posso garantire che funziona perfettamente, anche perché da poco me l'ha fatta sentire e funziona veramente bene, così come la tua, funzionano bene, non hanno problemi come i baracchini che li lasci e diventano poi un montone di garage, quelle sono radio belle corpose, belle toste. Va bene, ottimo, quindi 9 più 20, radio 5. Avanti. Luca, ci sei? Se no riprendi tu, Roberto. Luca FM Archimede sta sperimentando, vediamo un pochettino cosa ne esce, perché era un po' troppo paperinosa, come si dice, citofonica la modulazione. Avanti di nuovo a te, Muros, Claudio, avanti a te il microfono. Ciao, pace, fammelo sentire, pace l'ho avuto, la KB23, il pace e il toccai, ma negli anni che furono, quando ero a casa di mia madre, sono baracchini veramente eccezionali, hanno una trasmissione che non hanno bisogno di attaccare microfoni da tavolo e quant'altro, funzionano molto molto bene. Poi fammelo sentire qua, sia il toccai che il pace 123A ce l'avevo io, quello 23 canale mi sembra, con l'11 alfa o col 22 alfa, e adesso non mi ricordo. Buono, va bene, ottimo per la truppa, no, vabbè, poi tu c'hai i baracchini eccezionali, anche se sono quelli di vecchia generazione, sia in base, ma questi veicolari, veramente io tutti quelli che ho sentito, tuoi sono eccezionali, escono veramente molto molto bene. Avanti, Robby. Eia, quanti ne hai di questi veicolari, Claudio? Eia, no, io di questi veicolari ne ho un paio oltre, vabbè, la Lan 48, il Mobicom, e cosa c'ho? Un Lafayette Away, abbastanza grande, più grande della Lan 48, e poi c'ho un altro, quello, non so se lo faceva la Midland o cosa era, quello che c'ha l'antenna incorporata che si può usare come veicolare in macchina, oppure te lo puoi portare con le batterie e c'ha l'antenna, un 23 canali o 40, va, nemmeno mi ricordo. Ne ha tanti, Robert, io ho visto la collezione che ha garage di Gianni, ne ha tantissimi, c'è uno scaffale pieno di veicolari, poi base, c'è anche tutti in base da parte, una catena di microfoni, tutti i tipi, più 3, SBE, più 2, un sacco di... Una bella stazione c'era, sì, l'ho vista io, quindi posso garantire tranquillamente. Ogni tanto, chiaramente, come gli avevo già detto, io farli girare un po' ogni tanto, portali uno dentro, due, tre, farli andare, capito? Perché la cosa sua è che non ha il posto così come c'ho io, una stanza, come li ho messi io, li accendo tutti, li faccio girare, quindi deve andare lì a prenderli, attaccarli, farli. Se avesse avuto la stanza così avrebbe fatto una cosa meravigliosa, capito? Perché ce li ha veramente molto belli, poi sono radio eccezionali, soprattutto i veicolari ne ha spettacolari, molto molto belli. Va bene, vai Robby. Lascia un attimo il telefono, scusatemi. Vai Clan, ehi, Apache 123, fammelo sentire, c'è una modulazione fantastica con la radio, attaccala. Capo di Bugnetta. A proposito del capo di Bugnetta, non senteci Massimiliano. Attento Massi, che è stato entrato a lavoro, Joe Mazzendig. Con la capsula, non ci sta, capito? È un bel grande, è molto più grande di quella che c'ho io, i fuori. Però ho visto che c'è il lamierino, quindi piano piano con una forbice che taglia la puoi fare un po' più piccola. Ma non è solo quel lamierino, è che poi deve entrare dentro la sede e non è facile perché il microfono è fatto a cono, capito? È vero, però cazzo, l'SB è un bel largo, un bel grande, è strano, è più grande del Tram più 3 come innesto di capsula, strano che non ci stia, peccato perché esce bene, esce, e non si può smontare da quella carcassa che c'ha di lamierino. Adesso ci provo, vedo un po', tanto già ne ho altre 4 o 5 di queste. Oh, ma se riesci piano piano a staccarla da quella sede lì, e praticamente eliminare tutta quella base rotonda, allora ci sta. Le metti un pochino di cotone, gliela metti dentro, esce molto bene, esce molto bene, molto amplificata, bella, mi piace. Ma sai, il problema di che non gli ho fatto la massa, non gli ho fatto la massa al microfono, capito? Cioè, gli ho saldato i fili del microfono al circuitino e dal circuitino li ho saldati al cavo della radio. Però non c'è massa, capito? Così che cosa devo fare? Devo fare una massa dal circuitino alla carcassa del microfono. Allora vedrai che anche con la sua capsula originale uscirà molto forte e posso mettere il compressore, mentre in quella maniera non posso pulire, perché come aumento a 3, ma chi è subito innescata da impazzire? Perché c'è un conflitto troppo alto. Io gliele sai fare queste cose, appentati, vedi un po' se riesci a staccarla da quella sede e gliela metti da sola, senza tutto quel lamierino, ma vedrai che già riesci a fare un bel lavoro, perché esce bene, esce veramente molto bene. Che non ho provato a regolare il trim, perché ho saldato i fili del microfono, li ho saldati al circuitino, poi ho chiuso tutto e non ho provato, non c'era nessuno quando stavo facendo, sicché proverei anche ad aprire, abbassando, però giustamente se si sta facendo con queste o così non è che posso stare a rompere i scatoli, abbassando il trimmerino fino a che non riesco a tenere il compressore attaccato con i trimmerini regolati, poi non si tocca più. Però se c'è gente che vuole fare queste o cosa mi pongo chi a rompere i scatoli? Vabbè, lascio 40 canali, io commuto la cappa per non sentire splatter, perché se c'è gente vicino a casa mi splatterano con i baracchini. Commuto con 140, ci andiamo sul 30, sul 35, sul 40 e facciamo le prove che ti servono, giusto per avere una regolazione giusta, capito Luca? Sì, si può fare anche così, se non innesca. Adesso lo apro e gli abbasso i trimmerini, vediamo cosa succede. Vado a vedere, già sono qua io, non c'è problema. Chioro, hai collegato? Chioro sta collegando al pace, non esci al telefono ancora? No, sono già stato adesso. E i baracchini che da un bel assassa di Cla, a parte coso, Walter che c'ha la collezione, chi è che ne è appassionato, che ne ha molti? Tu ne hai lo stesso tantissimi, chi c'è altri? Ma vedi, noi che facciamo queste collezioni così, vabbè, io come baracchini veicolari ne ho solo tre. A me piacciono molto in base, quindi colleziono base, mi piace avere in base. E poi sicuramente tutti gli altri, insomma, non lo so esattamente chi fa collezione di queste radio. che c'è gente che le piace avere queste radio vecchie così, che funzionano bene. Io non mi posso lamentare perché quelle che ho preso sono veramente tutte funzionanti, tutte. L'unica che funziona un po' peggio delle altre è lo standard, che non lo uso quasi mai, però riceve bene, ma non mi piace la modulazione, molto gracchiante, ma gli altri vanno bene, roba. Non lo so chi, di solito chi fa queste cose è a base, però Capri c'ha molti veicolari anche, capito? Oltre in base c'ha anche molti veicolari. Sì, alle mercatine ne vedo ogni tanto di questi, cioè degli amici che ne portano, ma sinceramente non è che me ne è fregato più di tanto di questi veicolari. Base è l'unico che ho trovato, vabbè, non l'ho preso al mercatino, quel pony famoso e basta. Però anche a me piacciono i base, i veicolari non mi piacciono. Base, insomma, sono anche, io ho fatto questa scelta, Robert, perché altrimenti dovrei avere alimentatori, mezzi piedi, eccetera, per i baracchini, capito? Mentre i due alimentatori grossi ce li ho solo per i 430 e per i 140, fino a quando li tengo, insomma, tengo gli alimentatori. Mentre essendo la 220 ho fatto fare da un elettricista un quadretto con tutte le prese e l'interruttore generale col salvavita, sono tutti collegati lì, io tiro su e si accendono tutti, e poi il commuto col commutatore d'antenna sino a dove arrivo, dove non arrivo stacco l'antenna e gliel'attacco, capito? Però la comodità è non avere alimentatore mezzo ai piedi. La stessa cosa che dico io, a me il rompimento di scatole sono gli alimentatori, anche se ne uno grosso ne gestisce 10, non me ne ha fatti nulla, però tutti i fili per portarli, fare, mi piacciono solo le basi, mi ha tenuto attivo dalla 48 e di quelli veicolari. Poi c'è un altro Midland, cos'è, Alambo, non so cosa sia, e un altro, tre in tutto qua ne ho in stazione di questi veicolari. E il Mobico me l'ho dato a Giovanni Bracco perché non riusciva a uscire col cosa c'ha, l'M93 mi pare, gli ho dato un microfono. Già l'ho visto, si è organizzato bene anche tu, anche lì c'è un sacco di posto, volendo fare una cosa del genere, dall'altra parte fai una bella scaffalatura e ti fai tutti i vintage, però insomma, o li usi o non li usi, io ripeto, ho fatto questa scelta perché adesso c'è il posto e quindi li ho messi tutti in funzione, altrimenti prima non si poteva fare. Vediamo un po' se è rientrato Claudio da Mulos. Claudio sta collegando la stoppaccia 123, Luca è indaffarato, Tino si è allontanato un attimo, KK, ok, poi stamattina, il cane da portare, quindi ti ho lasciato, ma poi con calma già ci vediamo. Facci due chiacchiere, andiamo a prendere un caffè. Ho cambiato radio adesso, cosa cambia? Più basso o più alta? È 44 questo. E io? Più forte di radio, maledetta. Ci mette a fare, no? Vabbè, quello vuole anche regolato un po' di più, abbiamo fatto una cosa così a orecchio. Stavo guardando, però spinge parecchio, no? Forse stavo spingendo troppo di segnale, no? Sopra di me sei col baracchino, quindi... Però, vabbè, noi siamo vicini, no? Neanche col 140 mi arrivi 9+60, quindi è chiaro che col baracchino, anzi questo è abbastanza preciso, è molto attenuato, però vai a toccare il DB, perché c'ha il 9+30 e poi c'è il DB, quindi sei proprio a fondo scala. Con questo invece non sei sopra la B del DB, sei sopra la D, sei leggermente più indietro, quindi sicuramente stavi andando un po' più alto lì, però la radio è più bella questa, è più penetrante, niente da dire a quella là, la tonalità è uguale, questa è un po' più acuta. Ma è più forte questa come livello microfonico? Sì, leggermente sì, la sento più acuta, Roberto. Però anche quella là è bella. Ehi, va bene, dai, adesso però devo lasciare che io devo uscire, devo fare cosa, dai. Ciao Claudio, già ci sentiamo quando vuoi, già sai dove ci sono. Ciao Claudio da Muros, anche tu, cioè sai dove mi trovi, se vuoi prendere quella roba passa quando vuoi. Poi Luca, se mi ascolti anche a te ti saluto e tutti gli eventuali amici qua su 10. Ciao, l'ultima cosa, Claudio da Muros. Natalino stava cercando un Tanner, se c'è qualcosa da dargli mettetevi d'accordo. Roberto, l'ho avuto mollare, ti ascolto bene. Come modulazione simile alla KB23, schiaccia bene il microfono, che si è mancato leggermente, però come tonalità è molto buona. No, funzionano bene, guarda, io mi ricordo quando ero a casa di mia madre, avevo la KB23 e il Pace 123A negli anni 74-75. usciva la chiamata, infatti tutti mi dicevano ci usavano qualche microfono particolare, perché allora i microfoni erano il Tanner più 3, il Tanner più 2, l'M, il Tanner quello da palmo, insomma microfoni così c'erano. E quindi mi chiedevano sempre, io dicevo appunto che stavo usando un microfono normale, ma usciva era una canonata, soprattutto il Pace 123 aveva una modulazione splendida, mentre l'HB23 era un pochino meno, ma comunque si difendeva bene lo stesso. B23. Non ho capito. Buonasera. Ehi, fammelo sentire. Ciao Giulio, buonasera. Ciao Claudio, mi adesso acceso. HB23. Ciao Claudio di Muros, ti ascolti? E la stai cambiando, stai usando l'HB23? Mi glielo ho detto a Claudio, appunto che ce l'hai tu, ogni tanto lo accendi. Bella. Io Giulio ho procurato il microfono di quella radio, ma non vuole visto, non vuole visto, c'è da cambiare lo spiralato, il connettore originale a 5 punte ed è bianco. Però hanno fatto casino sopra nel pulsante, quindi gliel'hanno aggiunto. Se lo vuoi io te lo do, però ti dico che non vuole visto, era buttato nella cantina, però è originale Lafayette. Se riesci a mettertelo a posto, a rinfrescartelo, a fartelo, lo spiralato vuole buttato perché è secco, tutto messo male. Però il microfono originale della HB23. Ho capito qua, vabbè. C'è nuovamente la portante, vediamo un po'. Claudio, sei tu? No, non è Claudio, allora c'è una portante abbastanza forte. No, qui non arriva. Sì, la senti la portante? La senti Giulio la portante? Mi senti? Ti sento male Claudio, importante. Sì, a te ti copre totalmente, quindi siamo le solite. Va bene, allora auguri al portantista, va bene così, siamo qua. Chi è che chiama? Sempre 9 più 15, è la solita. Sì, a me 9 più 20, ma questo non ti fa niente, ma Giulio non lo sento. Sì, è uno schifo comunque, dai. Ciao, sono in ascolto, ciao. Sì, vabbè. Dai, bianco per me, Giulio, c'è la portante, non ti sento, è un casino, dai, non mi piace modulare così. Ciao, raccontaci quando la finisci. Di rompere l'anima, non capisco cosa, con chi ce l'hai e perché ti stai comportando così, continua, va bene lo stesso, ciao. Claudio, mi senti? Ehi, ma c'era una portante, abbiamo staccato, è entrato anche Giulio con la HB23, però c'è la solita portante, quindi abbiamo staccato, capito? No, con HB23 vai benissimo, però abbiamo staccato perché c'è la portante, quindi Giulio non mi sentiva, io non sentivo Giulio, io sto andando col baracchino, quindi non è che devo stare a mettermi a fare altre cose, non mi interessa, no, c'è la portante, sto in silenzio, vuol dire che si diverte da solo, se vuoi ti dica. Ok Claudia, dai, io vado a portare il cane, se non c'è la portante ci sentiamo dopo, ok? Se poi Giulio riesce a fare due chiacchiere con te va bene, se non mettono la portante. Ma i peperoni cotti sono o no? Ehi, sì, la portante è sempre la stessa perché il segnale è sempre lo stesso qua, capito? e quindi poi è molto forte nella parte bassa del monte, latte rocce, perciò non è che puoi stare sempre a bisticciare con la gente, pazienza, non fa niente. Non si vive solo di radio, Ti saluto, saluta Babbè Mamma, ci sentiamo più tardi se ci sei. Vediamo poi, io rilascio a Giulio se non ce la portate, se vuole fare due chiacchiere con te, anche lui stava usando la KB23, splendida modulazione, altrimenti non so cosa dirvi, dai, io devo staccare, ci sentiamo più tardi. Giulio, ci sei? Ci sono io, Peperoni. Cosa hai detto Gianfra? Che ci sono io, sto aspettando i peperoni. Ma stai uscendo male Gianfra? Oh cavolo, che è successo? Non lo so, sei tutto qui, non ho capito cosa è, non lo so. Controlla, c'è che ho arrugginito, Giulio dovrebbe essere in stand-by, se non ha chiuso, perché è fastidioso modulare quando ci sono delle portanti o delle interferenze, non va bene. Io mi sto allontanando con la porta del cane, se è possibile due chiacchiere dopo, altrimenti ritenetevi tutti salutati, ciao. Ehi, Claudia, sì, c'era poco fa Lima 1, mi hanno fatto proprio, abbiamo scambiato due parole, dai. Al limite, se già entrano sempre sul canale 10, io li sento tutte le sere, quando sono qua in stanza, capito? Quindi non c'è problema, al limite ci spostiamo e ci facciamo due chiacchiere. Giovanni che a me non mi arriva, ma Lima mi arriva a Santiago 5, 7, non c'è problema. Ok, a dopo ti saluto, ciao ciao. Grazie altrettanto anche a te e famiglia, ci aggiorniamo più tardi, Claudia. Ciao ciao. Ciao Gianfra, più tardi, ciao a tutti. Ciao, a dopo. Ciao anche Claudio. Claudio 2, da Muros. Buonasera. No, Claudio, un attimino, ma di Muros, ovviamente. Ma tu mi ascolti? Sì, sì, confermo. Molto basso di radio o molto basso il segnale? Sì, ok. Vediamo qui, è un po' bassa. Adesso c'ho anche il monitor. Ok, non so cosa sia successo. Ok, dai, ci sentiamo dopo. Che si sgancia ogni tanto. Ci sentiamo dopo, Claudio, che guardo cosa sta succedendo. Sì, forse c'è un caso. Ti richiamo più tardi. Stai attento, essendo quella portante, che il segnale già si trova. Occhio con chi la metti, perché c'è tutta sorpresa. Sì, ok, d'accordo, Claudio. Abbia capito la tua portante. Ci sentiamo dopo, dai. Spero che adesso la radio fa un pochino meglio. Va bene, Claudio, beh, io sono con un quarto appena, Papà, come senti a me? Va bene, adesso. Papà, come senti con la portante? Basta che la tieni bene con le mani, ma è un vecchino che la terra al cambio. Dimmi se mi senti bene di radio, Giulio, che sto provando la parte. Ah, Gianfranco. Perché mi stai facendo degli altri apparati adesso? No, ho capito. Tanto ti trovo. Quindi cerca di sgommare, non viene. Giulio, vediamo. So se questo mette un po' di sole in zucca. Dimmi come mi senti di radio. Ma se ti trovo, se ti scopro, anche a te piacerà. Il segnale più o meno l'ho capito da dov'è. Guarda adesso Giulio se mi senti meglio. Niente, già qua, niente. Sì. Sta giocherellando, poi si giocano altri. Se lo scopro piacerà anche a lui, vedrai. Infatti. Io però non ci fossero più che si fossero stancati, invece ogni tanto ne esce uno in giro. Proprio vero che la mamma degli imbecilli è sempre incinta. No, ma questo è bastardo. Questo è bastardo. Sì, questo è un imbecille. Puoi passare in FM un attimino, Giulio? Ok. lascialo, non la dare corda che sennò fa peggio, Claudio, non la dare corda. Giulio, mi chiami, chiama tu, io ti localizzo, non dire il canale, su un qualunque canale chiama, io ti localizzo subito. Oh, vediamo un po', Giulio? Sì, già sta. Si chiama su un qualunque canale a tua scelta, anzi lascia un po' la portante che ti trovo subito, mi bastano 3-4 secondi al massimo. Ok. Oh, Giulio? Sì, dimmi, gioca, non mi hai trovato. No, evidentemente si è spostato su un canale vicino a quelli occupati, perché c'è molta gente oggi. Sì, io sono andato nell'Alfa. Ah, ma va benissimo, io non ho problemi, anche un Alfa va bene. L'importante è che sia o verso giù o verso su, scegli tu. E appena più su, dai. Ok, metti un attimo la portante. Ce l'ha con voi, eh. Hola. Hola. Hola. Hola, attenzione, canale 10, cambio. Canale 10, prego. Chi sei, Gianni? Sono scappati tutti, non so dove siamo andati a fine, c'è la portante già, mi ha rotto il riscatto, vorrei. Io ti saluto e me ne vado, ciao. Io sono entrato adesso, va, perché stavo facendo roba, pensavo ci fosse gente, vabbè, non c'è problema. E gente ce n'era parecchia, ma c'è la portante, sono scappati tutti, cosa fai? Un casino, basta. Oh yeah, un casino davvero, Localidade. Noi ci siamo spostati qua vicino, però su mezzo canale con Giulio. Vabbè, io niente, me ne vado a cenare, non mi interessa. Divertitevi, non si può continuare ad andare avanti così, un vecchio quattrini, per poi buttare via tutto perché non si può parlare. Ciao ciao. Ok, ciao Claudio, ciao Gianni, torno di là. Ciao Bagala. Hola, attenzione, canale 10, canale 10, canale 10, cambio. Sì, sono arrivato io, cambio.